Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Lunedì 15 marzo, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Siete sempre su Liberi Dentro e Duradio, ora in onda su Radio Città Fujiko ore 9 e alle 10.30 su Teletricolore. Do il buongiorno ai miei ospiti subito. Abbiamo il nostro Ignazio De Francesco, come sempre, da Montesole. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutte e a tutti. E abbiamo Paola Leotti, giornalista, che poi presenterò in maniera più approfondita con noi tutta la settimana da invece... No, tu dove sei? Non sei da Milano, sei da? Lugano. Lugano. Da Lugano e grazie per l'invito, molto felice di essere con voi. Bene, partiamo con la nostra cronaca bianca quotidiana. Vi presento questo progetto, tocco l'articolo da iltaccoditalia.info di Thomas Pistoia. Anch'io ho dei sentimenti, le detenute si raccontano sul web. Questo è un progetto dove testimonianze di donne che hanno conosciuto l'esperienza, anzi la vita del carcere, sono al centro di questo progetto dove si associano le parole alle emozioni, dove mira a evidenziare sogni e bisogni di chi sconta una pena a beneficio di un percorso di recupero che deve essere sempre l'obiettivo della nostra rieducazione all'interno del carcere, come evidenzia l'articolo 27 della Costituzione. Quindi chiede l'articolista, quanto conosciamo le persone che vivono l'esperienza carceraria? Cosa sappiamo delle loro necessità, dei loro sentimenti, della loro vita quotidiana? Quindi a queste domande ha provato a rispondere questo seminario online, perché purtroppo la pandemia costringe a fare tutto online, dal titolo Anch'io ho dei sentimenti, dove appunto le detenute si sono raccontate. E alcune di loro, ci tenevo a ricordare due testimonianze in particolare, una di Aurelia, ex detenuta, e una di Teresa. Quella di Aurelia, che è detenuta da più tempo, fa più riflettere, insomma, dice: posso dire di provare un sentimento di gioia durante i colloqui, ha detto, quando è stato chiesto di indicare un'emozione positiva, ma in carcere, dice, di positivo non c'è nulla. E l'unica cosa positiva forse che si impara è l'importanza della libertà. Più serena invece la testimonianza di Teresa, che è detenuta da meno tempo, che dice invece la detenzione può diventare anche speranza nella possibilità di un riscatto. Non dico che sto bene, aggiunge, in carcere non si sta bene, ma non ho perso la speranza, vedo una luce in fondo al tunnel. E quindi il mio invito, adesso poi riprenderemo questo tema anche con te Paolo, è di scriverci le emozioni dal carcere in questo momento durissimo veramente della pandemia, ma momento che non è solo momento, è vita dietro le sbarre che scorre però anche piena di sentimenti e di speranze. E ora do la parola a te Ignazio con la nostra cronaca internazionale. Sì, siamo internazionale, che però la consideriamo il cortile di casa perché è il Mediterraneo. Dobbiamo sempre più abituarci a considerare Marocco, l'Algeria, la Tunisia, la Libia, come alloggi sul cortile comune che è il Mediterraneo. Oggi siamo in Giordania per parlare, dove arriva un argomento molto molto importante che deve far pensare, il Jordan Times, che tocca la piaga del lavoro minorile in Giordania, che si è aggravata di molto, e questo riguarda anche tutti i paesi, gli altri paesi arabi, proprio durante il periodo della pandemia. Si calcola, secondo stime recenti, che oltre 76.000 bambini in Giordania sono coinvolti in attività lavorative. Quindi non solo non vanno a scuola, ma anche fanno dei lavori difficili, lavori pericolosi, lavori gravosi per la loro salute. Sono soggetti a sfruttamento economico e anche a sfruttamento sessuale, e vengono chiamati, in un recente convegno che è stato in Giordania, i lavoratori invisibili, perché io, quando ho abitato tanti anni in Medio Oriente, li si vedeva nel souk, per le strade, nei vicoli, però nessuno poi li cataloga efficacemente. Quindi è un problema che abbiamo, un problema che c'è in tutto il mondo in questo momento, ma in particolare nell'area dei paesi arabi. Allora vorrei un po' dedicare, mi viene in mente tra l'altro adesso un detenuto anni fa che c'è nel film, lo possiamo dire, della Doz, film Dustur, del Marocco, quale mi diceva che lavorava dall'età di 7 anni in un laboratorio che fabbricava forni e prendeva 50 centesimi alla settimana. Per fare una doccia ne spendeva 25, metà del suo stipendio quotidiano andava per fare una doccia. Allora a tutti questi, a tutte queste persone che ci ascolta, che ha subito questo sfruttamento, vorrei dedicare il primo brano da quest'area del Mediterraneo, di musica berbera, è una grande cantante berbera, che si chiama Dania Bensassi, che ci canta Numidia. Eccoci, bentornati sulle note di Dania Bensassi, questa musica berbera che ci accompagna tutta la settimana di Liberi Dentro Edu Radio. Siamo sempre con te, Ignazio, con il nostro Galateo Arabo, che però stavolta non ha come tema le virtù, diciamo, personali, però si può dire che certe virtù, certi valori molto positivi ce li riportiamo anche nelle nostre carte costituzionali, che sono un po' il DNA, no, dei nostri paesi di provenienza. Certo. Allora oggi abbiamo come tema le costituzioni del Marocco sul tema dell'uguaglianza uomo-donna. Giustissimo, Caterina. Allora sentite in questo elenco delle virtù messe sotto la carta, sentite che bello l'articolo 19 della Costituzione del Marocco. Yatamatta ar-rajul wal mar'a ala kutum al-musawat bil-huquq wal-hurriyat al-madaniyya was-siyasiyya wal-iqtisadiyya. Cioè l'uomo e la donna godono in piena parità, il musawat, dei diritti e delle libertà civili, politiche ed economiche. Allora, questi sono i grandi caposalti di un galateo della cittadinanza. E ancora nello stesso articolo dice che bisogna combattere ogni forma, kulli ashkali tamiz, la tamiz è la discriminazione tra i sessi. Questa parola ci viene dalla sponda meridionale del Mediterraneo, da un paese come il Marocco, è stata scritta questa Costituzione da musulmani. Grazie Ignazio, ritorneremo con te domani ancora su questo, ma adesso do la parola al nostro ospite che noi siamo onorati di avere qui, perché davvero sei un po' il faro per Liberi Dentro Edu Radio. E lo dico questo perché tu, Paolo Aleotti, sei giornalista principalmente radiofonico negli ultimi anni, ma sei stato anche per 10 anni, dal 90 al 2000, corrispondente dagli Stati Uniti per i giornali Radio e Rai. E hai realizzato numerosi documentari e reportage, tra cui quello di cui parleremo un po' per tutta questa settimana è Sogni dietro le sbarre, realizzato con i detenuti del carcere di Bollate per 2 mesi, girato anche proprio da loro. E quindi una domanda che ti volevo fare è anche un po' a partire dalle testimonianze dei detenuti che dicono non è esperienza la galera ma è vita, allora è come hai incontrato tu il carcere? La mia esperienza di vita. Intanto grazie veramente a voi. Io imparo, già ho imparato dalle parole che avete detto finora tante cose, per esempio del Marocco che non sapevo assolutamente, che e nel carcere ho veramente imparato moltissimo. Come ho conosciuto il carcere? Parto un po' più da lontano perché appunto, ahimè, non sono più giovanissimo e ho girato un po' il mondo. Quando ero negli Stati Uniti, per esempio, sono stato inviato ad Huntsville, in Texas, che è purtroppo il posto più famoso dove fanno condanne a morte, esecuzioni capitali. E mi è capitato di essere lì per 5 giorni di seguito, intervistando 5 condannati a morte il giorno prima che ognuno di loro venisse ucciso. Ovviamente è stato uno shock perché ho conosciuto loro, perché ho conosciuto i parenti delle vittime, il momento dopo l'esecuzione, che speravano in questo processo di healing, di guarigione, che dicevano dovrebbe intervenire proprio da quel momento in poi, e invece nessuno dei parenti delle vittime si sentiva sollevato dopo aver visto morire qualcuno, no? Che aveva magari ucciso però dei loro cari. E ancora prima mi era capitato, sempre nel carcere qui in Italia, alla Giudecca, una strana Carcere avventura. femminile. Ero andato nel carcere femminile, quel giorno lo aprivano, diciamo così, era aperto, tutte e 300 le detenute potevano essere libere di stare insieme e intorno a me e a un giornalista di Repubblica per intervistarci. Dico la verità, per la prima volta mi sono trovato dalla parte opposta di quello in cui voi donne, Caterina, vi trovate purtroppo assai spesso, minacciate, e io mi sentivo francamente a disagio, no? E loro pian piano si avvicinavano e le poliziotte pian piano sono riuscite in qualche modo ad allontanarle, ma io capivo che non era cattiveria, però sentivo una oppressione molto forte e il loro desiderio di aprirsi, di liberarsi, ma anche di prenderci. Quindi, ecco, venivo da questo. Poi, diciamo, ho fatto tante altre cose, non mi è più capitato. E poi un giorno mi ha telefonato Antigone, l'associazione culturale che si occupa appunto di portare la cultura in carcere, e mi ha chiesto se avessi voglia per caso di insegnare ai detenuti a fare quello che io un po' so fare, radio e televisione, quindi documentari radio e televisivi. Ero molto incerto, ho detto di sì. Sono entrato a Bollate per 2, 3, 4 mesi. Io sono solito fare così: ho fatto il convitato di pietra, non sapevo dove entravo, non sapevo chi ero, non sapevo chi erano. Ma detto questo, ad un certo punto ho iniziato veramente ad aprire un rapporto e veramente il rapporto si è aperto tantissimo. E per me il momento principale è stato quando uno di loro, un po' il leaderino in quel momento, Gaetano si chiamava, mi disse: Paolo, adesso sei maturo, adesso possiamo dirti che noi non siamo reati che camminano, ma siamo persone che hanno commesso un reato, ma siamo persone come te e tu pure puoi sbagliare. E io lì veramente, quando hanno cominciato a chiedermi: ma tu perché vieni qui, Paolo? Io venivo apposta da Roma e ho detto: perché voi insegnate a me molto più di quanto io possa insegnare a voi. Grazie Paolo, perché cioè, nella domanda che io ti ho fatto, tu hai risposto raccontando delle persone. Io ti ho chiesto come hai incontrato il carcere e tu mi hai portato tante, tante persone. Allora io chiedo a te di dedicare a tutte loro che ci ascoltano, ma anche a tutti loro che ci ascoltano dalle case circondarie dell'Emilia-Romagna, una canzone. Ecco, io inizierei con questa canzone che amo molto, che si chiama Mami. È una scelta non casuale assolutamente. Mami è una canzone molto. Posso raccontare un momento che cos'è? Sì, sì. Molto bella e famosa, scritta da Giorgio Strehler, il regista scomparso 24 anni fa, che raccontava, dopo la sua esperienza nella Seconda Guerra Mondiale, la prigionia di un partigiano nel carcere di San Vittore e la sua ferma resistenza al tradimento. Mi sono de quei che parli no, mi scuso con il milanese, ma insomma, io sono di quelli che non parlano. È una canzone interpretata poi magistralmente da Ornella Vanoni, io vorrei appunto ascoltarla da lei, e poi anche da Enzo Iannacci. Mami, io la scelgo anche perché è diventata una sorta di inno dei carcerati ed è stata così amata tra le mura di Bollate che è diventata la colonna sonora del primo audiodocumentario che abbiamo confezionato durante il laboratorio Teleradio Reporter che io vi dico. Dunque, Mami di Ornella Vanoni. Il commissario ieri mattina è ma mandaccia mali per lì. Noi siamo qui, non senti alcuno. E il me diceva sto pretero. E il me diceva, mi vuoi compare, non li pigliassi senza di te. Ma si parlasse, io firmo qua il tuo condono, la libertà. Tu sei un fesso che sei contento di stare solo, chiusa qua dentro. Ciao a tutti, io sono Fabio. E io Lorenzo. Oggi parliamo con Monica Brandoli, la responsabile del servizio alla grave emarginazione adulta. L'estratto è stato realizzato in collaborazione tra Tecnotrade e ASP Bologna. Vai con la pillola. Io ti volevo chiedere, Monica, dal punto di vista della tua esperienza, come si compone un po', diciamo così, a grandi linee, la popolazione di coloro che hanno bisogno, insomma, di essere accompagnati, aiutati, reinseriti, sia dal punto di vista, diciamo, del servizio di cui ti occupi tu in particolare, della grave emarginazione adulta, che nel rapporto, come ci dicevi già adesso, che c'è tra questo e la parte del carcere di Bologna, diciamo. Sì, il servizio contrasto alla grave emarginazione adulta si occupa in modo specifico di tutte le persone adulte e singole nella fascia d'età 18-65 anni e in particolare di tutte quelle che sono persone con una gravissima fragilità, tanto da essere diventati senza dimora. E quindi noi ci occupiamo di questa parte della popolazione e all'interno di questa ovviamente vi sono moltissime tipologie di persone, di bisogni, di desideri, di aspettative. Sono, appunto, ho detto, persone sole che hanno una difficoltà economica significativa, che spesso hanno avuto delle fratture nelle loro biografie, quindi separazioni dal proprio nucleo familiare di origine, ma non solo, perdita di relazioni significative, perdita del lavoro, perdita della casa, persone che a volte abusano di sostanze sia legali, quindi alcol, sia illegali, quindi tutte le sostanze psicotrope. Sono persone che spesso hanno anche dei disturbi psichici o addirittura psichiatrici di comportamento, persone che a volte sono rimaste solo con un'unica persona della quale non si vogliono assolutamente distaccare e che quindi sono in strada, in coppia, e magari sono coppie di amici, coppie anche sentimentali, sia eterosessuali che omosessuali, e che accettano l'aiuto solo se noi ci occupiamo della loro coppia e non soltanto di uno di loro. A volte sono persone che sono in uscita da ospedali, che hanno delle patologie significative, anche organiche, esiti da ictus, esiti da infarti, diabete, quindi persone che hanno delle patologie che certamente non possono curare all'interno della città, nella strada, ma che hanno bisogno di protezione. E poi ci sono persone che sono in uscita dal carcere e che rischiano di finire in strada. Noi sappiamo che almeno una persona su quattro senza dimora ha avuto una pregressa carcerazione e quindi per noi è importante che la persona già da quando entra in carcere sappia intanto che cosa è possibile all'interno del carcere per prepararsi all'uscita o comunque perché nonostante tutto la permanenza in carcere abbia il più possibile la caratteristica anche della riabilitazione. E poi naturalmente all'uscita per noi è importantissimo essere lì, creare una rete proprio per far sì che la persona non finisca in strada. Secondo te, Monica, quali sono le maggiori difficoltà che vengono riscontrate quando si vuole offrire la possibilità concreta di lavoro ai reclusi? Beh, c'è una parte di difficoltà che è assolutamente trasversale a quella che incontriamo tutti, in particolare le giovani generazioni. Quindi un mercato certamente difficile, in particolare in quest'ultimo anno a causa della pandemia, è evidente, e un mercato che sempre di più richiede delle professionalità molto specialistiche. Poi, chiaro che nel momento in cui una persona è in uscita dal carcere, bisogna stare molto attenti perché lo stigma, soprattutto nel racconto che la persona fa della sua esperienza carceraria, rischia di, essere, un deterrente all'aiuto, invece di essere comunque qualche cosa che stimola la solidarietà. Quindi io penso sicuramente questo. Poi è chiaro che dipende molto dalle persone e dal livello anche di competenze che le persone hanno, anche nel momento in cui entrano in carcere, perché è chiaro che averle vuol dire poterle mantenere all'interno del carcere, poterle spendere una volta che poi si esce. Non averle vuol dire che in carcere è necessario tentare di fare un lavoro per cercare di far acquisire alcune competenze alle persone per poi renderle spendibili sul mercato del lavoro. E credi che ci siano proprio dei settori specifici, una volta usciti dal carcere, che siano più facili per le persone ex detenute poterci lavorare all'interno? Non so, magari il settore della cucina, quindi gastronomico, oppure dell'agricoltura, settore verde, non so. Sì, questi due che citi sono sicuramente due settori nei quali noi attiviamo moltissimi tirocini formativi e i nostri partner, quindi gli enti di formazione con i quali noi abbiamo una convenzione, lavorano moltissimo proprio su questi due ambiti. Il settore della ristorazione è certamente quello che accoglie maggiormente le persone e che ha più necessità. È anche purtroppo quello per il quale in quest'anno siamo andati molto in sofferenza, perché chiaramente con le restrizioni dovute ai DPCM i ristoranti hanno avuto una contrazione della clientela e quindi anche della necessità di avere personale molto forte. Poi tutto l'ambito del verde sicuramente e molto stiamo vedendo anche tutto l'ambito dell'area del magazzino e quindi tutto quello back logistica esatto ai negozi e si sta attivando tanto anche l'ambito della sartoria. Interessante. Bene ragazzi, il nostro intervento termina qui. Mi raccomando, continuate a sentire Liberi Dentro Edu Radio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Rieccovi, bentornati. Dopo aver ascoltato le parole di Monica Brandoli di ASP, a cura di Fabio e Lorenzo, questa pillola, noi ci salutiamo, ma vi ricordiamo sempre che alle 17 c'è il laboratorio di AVOC, scrittura della vita su teletricolore, e vi ricordo sempre di scriverci a liberidentro.duradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. E noi ci rivediamo domani, sempre qui a Liberi Dentro, ore 9 sulla radio e ore 10:30 su Teletricolore. Buona giornata, ciao!